Un racconto al giorno, settima puntata. Oggi leggeremo alcune voci dal testo di Henry De Luca a Schiovara. Le parole di un vocabolario sono dette voci. Qui mancano precisamente quelle, insieme ai toni trasmessi dal napoletano. Voci e toni decidevano del significato. Tragico o ironico, benevolo o ingiurioso, completato da mosse di accompagnamento. Che vuoi? Che vuoi? Poteva essere aggressivo o fatalistico rinunciatario, precisato dalla mano con le dita raccolte a coppetiello. Se agitate verticalmente servono da intimidazione. Invece, orizzontalmente esprimono rassegnazione. In sede di una presentazione orale potrò meglio precisare i due gesti. Questo vocabolario napoletano è ridotto a scrittura, formula che ha la vana pretesa di durare. Non è un omaggio a Napoli, che non ne ha bisogno, dotata di autosufficienza. Napoli basta a se stessa. Nelle peggiori mancanze si arrangiava caparbia, indifferente, come i bambini che imparano a giocare a mazza e pivas. Cioè con due bastoncini, quasi niente. Le parole qui raccolte sono effetti personali, calli che hanno resistito sotto il guanto dell'italiano. Il napoletano è un utensile impugnato a mano nuda. Non sta sulla punta della lingua, ma nel palmo. Lo maneggio con me stesso, lo canto, mi dico versi e proverbi, lo adopero da sprone, da scoraggiamento, per una collera, per un complimento. Le pareti della casa che abito hanno assorbito le chiacchiere con mia madre, che malvolentieri ha abitato tra i campi con me per 19 anni dopo la morte di suo marito, mio padre. Le mancava la vista sul vulcano, le cui ceneri aveva spazzato per giorni da terrazzi e balconi durante l'eruzione del 44. Le mancava un paese mio. In ognuno di questi vocaboli c'è per me la sua voce. Mia lingua madre il napoletano, perché l'ho parlato con lei e di più l'ho ascoltato da lei. L'italiano usato in queste pagine per raccontare è vocabolario aggiunto, adatto alla mia indole appartata, lingua lenta di parole piane e opposta all'altra sbrigativa di parole tronche. L'italiano stava per me nei libri, silenzioso, spazioso, dentro terra. Il napoletano era portuale, carico di salsedine, dove il napoletano scortica l'italiano allevia, mi ci affezionai per riparo. Fuori soffiava da ogni punto cardinale il napoletano, dentro la cameretta dei libri c'era a forma di insenatura l'italiano. Grazie allo spessore degli scaffali imbacuccava pure contro il freddo. Ufritte. Senza coincidere, ci sono dati il cambio, escludendosi. Ma in queste pagine vanno per la sola volta sotto braccio. Qui c'è per me la convergenza di due fiumi, nessuno affluente dell'altro. All'intrasatto. A Napoli succede tutto all'intrasatto, improvvisamente. La vita, la realtà locale, ha il passo di carica degli scatti bruschi, dei sobbalzi. Il sistema nervoso napoletano è sollecitato e allenato da intrasatti piccoli e grandi, che vanno da una bussata alla porta fino alla scossa di terremoto. In strada i sensi sono allerta, pronti a reagire per cause improvvise. Mia nonna non si faceva cogliere di sorpresa, né disturbare dagli avvenimenti. Aveva la calma napoletana di chi ha raggiunto uno stato di sospensione al di sopra della realtà. Neanche i bombardamenti su Napoli, notturni e diurni, la distoglievano dalla flemma impassibile. Mentre intorno a lei, al suono della sirena di allarme, si svolgeva la concitazione organizzata della corsa al rifugio, lei restava al suo posto, munita di un suo lasciapassare in mezzo agli intrasatti. Non conosco migliore comportamento nelle avversità. Perfino il sopravvalutato coraggio è al di sotto di questo governo di se stessi. delle proprie reazioni. Si stupirebbe di questa mia descrizione di lei, negherebbe che fossero avvenimenti improvvisi. Era una continuazione. Dove tutto succede all'intrasatta, cresce anche la forza di neutralizzarlo, riducendolo a circostanza abituale. Allucco. In italiano è strillo, ma c'era bisogno di una parola esclusivamente locale per indicare i decibel di una città acustica. Nel dopoguerra, Napoli aveva la più alta densità di abitanti in Europa. Era luogo insonne, non capivo se si davano il cambio o se erano gli stessi che non si coricavano mai. La città alluccava. Da un balcone all'altro, dalla strada alle finestre, allucchi di andata e ritorno, modulando le tonalità. Le corde vocali assiduamente esercitate hanno prodotto validi cantanti. I nomi propri si prestavano a cantilene rispondenti a un canone melodico. Concettina, Salvatore. I chiamati gradivano l'appello, non rispondevano subito per sentire ancora e di nuovo l'allucco personalizzato. Altra specie acustica erano gli appiccichi, i litigi, un crescendo di acuti che da soli allestivano un teatro all'aperto. Accorrevano gli intenditori che partecipavano con opportune variazioni sul tema. Poi c'erano gli allucchi ricreature dei bambini. Erano strazianti, disperati, effetto di un'epoca che non usava metodi educativi verbali. Si esprimeva ammazzate, schiaffi, calci, buffettoni, che non misuravano la sproporzione fra la taglia dell'adulto e quella del minuscolo. Quegli allucchi mi torcevano i nervi, passando attraverso le mani premute sulle orecchie. Gli strilletti dei bambini moderni, stizziti, capricciosi, non hanno niente di quegli allucchi di infanzia bersagliata. Pino Daniele ha cantato i voci di creature casaglie chiano chiano. Evidentemente ho differenti ricordi. Ammappuciato. Stropicciato, riposto in malo modo nell'armadio, è stato il rimprovero fisso di mia madre. Ha abitato con me dopo la morte di mio padre. Teneva in ordine. Il suo lo apprezzavo, dopo no. I panni devono essere puliti, ma non serve che siano stirati, piegati e ben sistemati. Lavo i piatti, non li asciugo, li lascio sulla piattaia insieme alle stoviglie. Mi passo di rado una spazzola tra i capelli rimasti. Mi chiedo cosa aspettano a liberarsi dal cuoio capelluto. Sono ammappuciato fuori e dentro. Di ritorno dai viaggi in Ucraina col furgone, constato che il mondo è ammappuciato assai. Mo la cesta puro fritt, che ammappucea di suo. Da noi l'aumento spropositato, speculativo e usuraio delle tariffe energetiche sta ammappuciando i portafogli delle famiglie, riducendoli a una pellecchia. Magnifica per ora la loro pazienza civile. Napoli invece ha una sua versione ammappuciata che le dona aria di donna vissuta, un garbo e una sottomisura di sorriso tra le rughe. Napoli è ammappuciata con stile, almeno io la vedo così. Orna maggio, pure maggio, a Muina. Nella mia infanzia Napoli aveva la più fitta popolazione d'Europa. Eravamo densi, malgrado le perdite di guerra, le migrazioni, la mortalità infantile. A noi si aggiungeva qualche migliaio di marinai americani sbarcati dalla flotta. Un forestiero di passaggio nelle strade poteva avere la vertigine del caos. Curiosamente, la parola greca caos indica il senso opposto di voragine, vuoto. A Napoli non c'è, al suo posto ci sta la Muina, apparenza di baraonda. Al contrario, un ferro ordine interno. I corpi, costituenti la Muina, hanno un loro scopo fisso e inesorabile e lo perseguono nel pieno tumulto collettivo. Si muovono nella densità come congegni lubrificati di un unico ingranaggio. Di un formicaio non viene l'idea di confusione, ma di sincrona attività operosa. A Muina è uno stato di fervore indaffarato, Chi non conosce il senso lo fraintende per bolgia. Per essere del posto bisogna trovarsi a proprio agio dentro la tensione superficiale dell'ammuina, in cui si svolgono più scambi contemporaneamente, con parole tronche, gesticolate, a scavalco di ostacoli e di intralci. Serve alla trasmissione di messaggi in piena folla, il gesto sintetico che altrove sarebbe ornamentale. In trasmissioni televisive basta che due persone si diano sulla voce per annullarsi a vicenda. A Napoli si parla contemporaneamente in molti e ci si capisce perfettamente. Si tratta di avviamento che coinvolge i sensi a destra dalla nascita. Ammuina è scuola di prontezza di riflessi, di sistemi nervosi accordati musicalmente di un'ottava sopra. Da noi la popolazione è in decrescita, ma nel mondo no. Ammuina è la formula di convivenza della futura umanità. Ha nascuso, nascosto, come nella frase, campa nascuse Dio. Vivere nascosto addirittura allo stesso Padre Eterno, esagerazione che comporta l'impegno a non farsi notare in alcun modo. È un consiglio antico, opposto al diffuso desiderio di celebrità, di essere notevoli. Napoli, fondata dai greci, ne ha preso alcuni spunti di filosofia, come questa di Annascuso, che viene dritta dritta da Epicuro e dal suo vivi nascosto. Non è un invito alla clandestinità, ma un suggerimento per la felicità. Scansare il chiasso delle ribalte, delle esibizioni, lasciare agli altri quei posti affollati, consistere in se stessi. Perché a Napoli, chi è in vista, tenor l'occhio in vuol, ha su di sé gli occhi degli altri, sguardi corrosivi, la fortuna denuncia il fortunato, i suoi favori lo espongono alla maldicenza, all'invidia, al malocchio. Mia nonna mi diceva: non te fa mettere l'occhio in gola, invitandomi a stare in disparte. Ma ero giovane, in anni in cui la gioventù coetanea ingombrava di sé le strade e le assemblee. Sottrarsi era come disertare. Da allora in poi non mi sono annascoso. Appicciato. La notte dell'ultimo dell'anno, Napoli si appiccia, si accende per autocombustione pirotecnica. La città piglia fuoco da ogni balcone per un'eruzione artificiale. I cani locali si sono abituati e se ne stanno muti. Un proverbio sentenzia: a altare sgarrupato non si appicciano cannella. Indica ogni impresa che non vale né merita lo sforzo e l'impegno. Ho patito, come tutti, una pena d'amore in gioventù. La fissazione mi incalzava e mi faceva immaginare di avere dietro lo sguardo di lei che mi giudicava. Allora inventava prove da superare. Cervantes aveva già descritto la sindrome di Dulcinea, ignara di essere musa ispiratrice di un balordo innamorato. Anche la mia damigella mi ignorava del tutto, né io le presentavo i miei storditi omaggi. Non mi confidavo, temendo il ridicolo di un sentimento tenuto in clandestinità. Il proverbio, chissà dove ascoltato, prendeva in giro il mio altare sgarrubato, presso il quale accendevo invisibili candele. Ironizzo, ma poco. L'intensità mi infervorava e mi faceva scrivere pagine da distruggere subito. Infine, mi passò. O si esaurì la scorta delle energie disponibili. Però quel proverbio mi guastò il rapporto con le candele. Ancora oggi, quando manca la corrente elettrica, me ne sto al buio, invece da PC a cannella. Areto. Non è un segno zodiacale, è invece una parola a Napoli sospetta. Dietro. Il cittadino sviluppa un sistema nervoso di allarme retrovisore per non farsi sorprendere alle spalle. Le insidie provengono da lì, non necessariamente da un malintenzionato. Un celebre medico napoletano del secolo scorso ammoniva i suoi pazienti: pigliate a rete tutto quello che volete voi, fuori corrente d'aria. Prendete dietro quello che vi pare e piace, ma non gli spifferi. L'innamorato non riesce a stare solo con la fidanzata, perché la mamma li segue ovunque, pure in strada. Io mamma te tu, noi annanza e mamma da rete, noi davanti e tua madre dietro. In altra canzone, Circostanza, la fidanzata dispettosa scrive sul retro della di lui giacchetta: Areto me tenè, cicci si fesse. Variante di Areto e Adereto, cui segue precisazione di luogo. Rim rim a chi pensa assattata, sola sola Adereto a stillastra. Dimmi a chi pensi, seduta sola sola da dietro a questi vetri. Di Salvatore Di Giacomo, Serenata Napoletana. È bene essere informati di quanto avviene alle spalle. Anche i profili dei siti social costituiscono la retrovia per la maldicenza e l'insulto. Equivalgono a un parlare anonimi alle spalle di qualcuno. In questo caso il napoletano ha una frase antidoto infallibile: chi parla a rete se fa rispondere lo culo. Arrassusia vuol dire non sia mai, dal verbo arrassà, allontanare. Arrass de camatigna, ricetto gravunare. Allontanati che mi sporchi, disse il carbonaio, equivalente del bue che dà del cornuto all'asino, e voce di chi accusa un altro dei suoi stessi difetti. È un diffuso metodo politico. Arrassusia si usa per scongiuro. Mia nonna lo preferiva al più popolare sciò sciò, che va accompagnato da mosse con indice e mignolo rivolto in basso. Lo applicava a notizie infauste, grandi o piccole. Non si scioglie il sangue di San Gennaro, arrassusia. È caduto per le scale, arrassusia. A Napoli il Banco dei Pegni era frequentato come istituto di credito. Si depositava un oggetto di valore per bisogno di contante. Poi lo si poteva recuperare ripagando. Spesso era impossibile riprenderselo. Allora nelle famiglie si discuteva il caso. Che facimmo? Pegniamo l'anello di mamma? Impegniamo l'anello di mamma? Arrassusia. A ricetta. Ogni sospiro coce, ma te un fuoco roce e come tra sempiette non ti tracchio a ricetta. Ogni sospiro scotta, mi ha un fuoco dolce e come entra nel petto non ti dà più riparo. Questi versi sono della canzone Occhi che ragionate. Occhi che ragionate, anno 1904. Occhi e sguardi esprimono da soli dei pensieri e non permettono riparo a chi è innamorato. A ricetto, in tempo di guerra, è una parola d'ordine. La generazione prima della mia ha contato a Napoli più di 100 bombardamenti aerei. Si scappava al suono lugubre della sirena di allarme per trovare una ricetto nei rifugi antiaerei. Iat, iat, mia nonna diceva ai figli che si avviavano di corsa per le scale. I vengo appresso, vengo dopo. Certe volte non scendeva nemmeno. Esiste un'indifferenza napoletana che non conta sulla fede ma sul fatalismo. È indifferenza pura verso il pericolo. Sono stato sotto i bombardamenti della NATO a Belgrado nella primavera del 99 e neanche io scendevo ai ricoveri. Qualcosa di mia nonna era passato a me. Pensavo a lei durante il chiasso della sirena che precedeva le esplosioni. Pensavo al suo iate, iate. Nei momenti di affanno e di tensione mi esce puntuale e pronto il napoletano, mi protegge, è il mio arricetto.